gli speciali di Radio 24. È esondato il torrente Ferreggiano e scendendo l'acqua ha trascinato tutte le macchine che c'erano in coda e le ha portate praticamente contro gli edifici che ci sono in fondo a Sardegna, De Stefani, Monticelli. Purtroppo qualcuno ha perso la vita in questo incidente. A Genova è accaduto come il 7 e l'8 di ottobre del 1970, quando allora caddero 900 mm di pioggia. 44 morti allora, 6 morti oggi. La strage dei bambini, 6 le vittime, con quello che avete sentito anche poco fa, un'ondata di piena del torrente Chiaravagna tra le 17 e 17.30. Questo quartiere che attraversa il quartiere di Bozzoli sfocia a Seste, attesa tra poco anche l'ondata di piena del Bisagno. Allora noi ci colleghiamo con Genova, martoriata da diverse ore da un durissimo nubifragio che si sta abbattendo sul capoluogo ligure. Andrea Ferro. Sì, buonasera Daniele. In realtà parlavi di un'onda di piena del Bisagno. L'ultimo aggiornamento è che molto probabilmente quest'onda di piena non ci sarà, anche se precauzionalmente le strade che corrono parallele al corso d'acqua sono state sgomberate dalla Polizia Municipale, perché negli ultimi minuti, ma direi nell'ultima ora e mezza, il livello del Bisagno, che ricordo è il principale torrente cittadino, è sceso di almeno un paio di metri. Questo in una giornata tragica è un buon segnale, anche se le avvisaglie, ne poi ne parleremo tra poco, relativamente alle previsioni non sono affatto positive. I morti, c'è una prima ricostruzione della tragedia di via Ferreggiano, siamo nel quartiere di Marassi, a poche centinaia di metri dallo stadio. Poco dopo le 13 un gruppo di mamme ha raggiunto la scuola di Corso Sardegna per andare a prendere i bambini, mentre da ore un muro d'acqua stava scendendo sulla città. E mentre uscivano si è scatenata l'onda di piena del Ferreggiano, che è un affluente del Bisagno. La scena è stata ghiacciante, come raccontano alcuni testimoni, come abbiamo sentito anche da alcune voci prese in diretta. L'onda di piena ha investito le auto in coda ad un semaforo, sospingendole contro la scuola, quindi travolgendo tutti e tutto. Due bimbi sono morti, due donne e due uomini, queste sarebbero le 6 vittime, e secondo l'ultimo flash si tratterebbe almeno di una famiglia di albanesi. Dicevo della situazione che è destinata non a migliorare ma ad aggravarsi per quanto riguarda le previsioni. Infatti c'è un dato abbastanza allarmante, anzi estremamente allarmante: sono attesi sul Genova, sulla provincia, circa 400 mm di pioggia nelle prossime 36-48 ore. E ora come ora, sentivo che lo accennavi già in diretta, la situazione di emergenza si starebbe spostando nel ponente, nei quartieri di Sestri, Pegli, già segnati l'anno scorso ad ottobre da un'altra alluvione con una vittima e con danni incalcolabili. Ripeto, ora come ora il bilancio è il seguente: 6 morti, tra i quali 2 bambini nel quartiere di Marassi. Il numero dei dispersi è imprecisato, si tratta, ripeto, di notizie ancora molto molto frammentari. In questo momento sulla zona di Marassi, da dove vi parlo, non piove più, ma le nuvole nere si stanno addensando. È tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro, che ascolteremo naturalmente anche nello speciale delle 18, nei giornali radio, nel giornale radio delle 19. Siamo collegati con il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gianvito Graziano. Buon pomeriggio, Graziano. Buon pomeriggio a voi. Come è potuto accadere che gli occhi erano tutti rivolti verso le Cinque Terre e poi la pioggia invece si è spostata di svariati chilometri su Genova? Guardi, in questi giorni dopo i fatti dello Spezzino più volte mi è stato chiesto dove potrebbe accadere la prossima volta. Io ho cercato di rispondere a una domanda, devo dire, difficilissima, dando un dato fondamentale, cioè sul fatto che sul 12% di territorio italiano in frana abbiamo messo l'84% dei comuni, per cui diventa molto difficile pensare dove poter intervenire fin da subito e dove quando arriverà la prossima e dove. Ecco, mi scusi, ma il Bisagno era già esondato nel 1970 causando 44 morti. Sembra che questo paese non le lezioni, diciamo, della storia non le riesca mai a prendere. Non so se lei è d'accordo. Sì, sono d'accordo, ma appunto questo per smentire un po' il fatto che si dica sempre, beh, insomma, le bombe d'acqua, il dissesto del nostro territorio non è strettamente connesso. Certamente le bombe d'acqua quando arrivano sono estremamente pericolose, ma ciclicamente questo ricorre. È successo in Val di Vara, dove un'alluvione del 48 già aveva interessato quelle zone, ma è successo a Giampilieri nel 2007 e poi nel 2009 ci sono stati morti. Oggi sta succedendo a Genova, è successo 25 anni fa. In realtà siamo inermi, cioè io ho fatto oggi un parallelismo, è come se insomma l'Italia avesse un nemico e ce l'avesse in casa, piuttosto che difendere la propria popolazione civile non combatte. Noi non stiamo combattendo, stiamo soltanto aspettando e aspettiamo sempre che succeda qualche cosa. Guardi, Gianvito Graziano, noi avevamo intervistato proprio nella giornata di ieri il capo della protezione civile, Franco Gabrielli. Uno dei punti, una lunga intervista di Raffaella Calanda che sarà trasmessa nel weekend su Radio 24, non possiamo anticipare un pezzo, cioè la consapevolezza. Sentiamo Gabrielli. Il nostro paese anche da questo punto di vista è mappato. Esistono i PAI, che sono questi piani che definiscono le aree che sono esondabili e quindi tutto il territorio è, come dire, riconoscibile da un punto di vista della sua pericolosità sotto questo profilo. Sarebbe, come dire, un passo in avanti se ogni cittadino sapesse dov'è la propria abitazione, perché le aree che sono state che sono state in qualche modo allagate da queste recenti alluvioni, salvo situazioni un po' particolari come sono state quelle delle Cinque Terre, ma le aree della Val di Magra piuttosto che le aree della Val di Vara, piuttosto che altre aree che in questi anni sono state oggetto di esondazioni, sono aree ampiamente conosciute e riconoscibili. Quanti cittadini hanno contezza di ciò? Quante amministrazioni comunali, provinciali hanno piani che in qualche modo possono essere utili a queste situazioni? Io credo molto poco. Nell'ambito della protezione civile, dove un altro concetto a noi molto caro, che è quello dell'autoprotezione, che non significa che ognuno fa da sé, ma significa semplicemente che ognuno di noi è consapevole delle situazioni in cui si trova, e allora se tutto questo funziona, funziona per il singolo, funziona per le comunità, funziona per l'istituzione, e allora sì, si crea un sistema virtuoso. Allora, mi scusi Gianvito Graziano, ho sentito il capo della protezione civile. Ecco, è un po' sconfortante quello che dice Gabrielli, che prima di essere capo della protezione civile è stato uno dei più grandi investigatori di polizia nel nostro paese. Ma è possibile che tutti sappiano in qualche modo? Gabrielli non citava il Bisagno, però il Bisagno è una di quei luoghi a rischio, fortemente a rischio. I geologi, quando realizzano i loro rapporti, questi rapporti dove vanno a finire? Ma guardi, il problema, cioè, venite ascoltati o no? Non è soltanto quello di dove vanno a finire e quanto siamo ascoltati. C'è un altro problema. Alcune di queste costruzioni sul Bisagno sono state realizzate anche dentro un sistema di regole. Di regole ovviamente, come dire, non condivisibili, però tuttavia un sistema di regole. Sono i vecchi piani regolatori. Cioè, noi abbiamo ancora oggi un concetto di città, che è ma anche delle campagne, che non è più la città e la campagna di 10 o di 20 o di 50 anni fa. Non è più possibile pensare che si possa costruire in regola mettendo un palazzo o più palazzi sopra il Bisagno. Eppure i vecchi piani regolatori, che non avevano per nulla in considerazione gli studi geologici, ma anche tutti gli studi consulenziali che oggi fanno parte di un pacchetto di un piano urbanistico, lo consentivano. Allora va rivisto tutto questo, va rivisto sotto un'ottica diversa. Noi purtroppo però in Italia, Gabrielli ha citato i PAI, facciamo sempre soltanto riferimento a questi PAI, piani di assetto idrogeologico, piani di bacino, che non sono la panacea, sono la fotografia, certo, della situazione, ma non pongono azioni sul territorio. Una cosa è sapere, una cosa è porre delle azioni. Certo, i PAI pongono dei vincoli e null'altro. Graziano, io la ringrazio tantissimo. Poco fa il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha detto che è una tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma, una tragedia terribile, ha detto: io non mi sento di dare la colpa a nessuno. nessuno, il Ferreggiano era un fiume in sicurezza su cui da tempo si era attivata l'attenzione della protezione civile del Presidente della Regione, sono stati fatti lavori dal Comune, tutto sulla base del piano di bacino. Osserva Vincenzi che nel giro di qualche minuto si è sollevato un muro d'acqua ad una velocità spaventosa. Dunque vi saluta qui Daniele Biacchessi che ha condotto questo speciale, questo primo speciale. Il prossimo, lo ricordo, alle ore 18.